arabesco-cinese. Grande era il potere dei mandarini e ancora più grande la loro ricchezza. Uno di questi mandarini viveva in una grande casa a due piani. Mentre la maggior parte degli uomini dormiva sul pavimento sotto umili tetti, lui dormiva allo stesso livello dei fiori dei suoi alberi di pesco. I giardini erano un paradiso di laghetti, fiori, prati, ponticelli e pagode, ma la maggior bellezza era sua figlia, Lici. Il mandarino stava tutto il giorno a lavorare nella biblioteca con il suo segretario, un attraente giovane di nome Chang. Mentre il mandarino mangiava i suoi cibi abbondanti e raffinati, Chang andava a passeggiare nei giardini. Gli piaceva appoggiarsi a un ponte che conduceva a un isolotto e osservare i pesci dorati che nuotavano sotto di lui. Anche a Lici piaceva fermarsi sul ponte a guardare quei pesci meravigliosi, ma di più amava guardare i bellissimi occhi a mandorla di Chang. Quando lui le parlava di Pechino, di Anyang e delle lontane terre del Tibet, Lici era letteralmente in estasi. Non passò molto tempo che i due si innamorarono, ma Chang le diceva: «Tu sei troppo in alto per me, sei la figlia di un mandarino, mentre io sono solo un umile segretario. Tu però possiedi un giardino di sapienza e i fiori della poesia», replicava lei, «perciò sei nobile e ricco come mio padre. Vieni, mettiamoci sotto l'arancia in fiore e promettiamoci eterno amore». Si presero per mano e sotto l'albero giurarono di amarsi per sempre. Ma il mandarino, che sedeva davanti alla finestra, li udì. «Vattene, Chang! Non voglio vedere mai più il tuo volto nel mio giardino e nella mia casa! Come osi parlare di sposare la mia adorata figlia?» Chang venne bandito e le lacrime di Lici caddero nel lago trasparente insieme alle foglie del salice piangente. Col favor della notte, però, Chang tornò nel giardino del mandarino e, sussurrando, chiamò Lici. «Vieni con me, ti porterò nella mia casa che si trova lontano da Anyang e da Pechino, fra le colline di Li». La fanciulla si lasciò scivolare fra i rami dell'arancio e lo seguì. «Ci nasconderemo nella capanna del giardiniere sull'isola al centro del lago», disse Lici. «A mio padre non verrà mai in mente di cercarmi in quel luogo solitario e incolto, e domani notte, quando avrà smesso le sue ricerche, fuggiremo». Mano nella mano attraversarono il loro amato ponticello e si nascosero per tutta la notte nella capanna del giardiniere, dove i ragni tessevano la loro tela tra il luccichio dei bachi da seta e delle lumache. In lontananza e per tutto il giorno seguente udirono le grida di quelli che li cercavano. I servi del mandarino frugarono la casa da capo a piedi, cercarono nei padiglioni, nel frutteto in fiore e scossero il salice piangente fino a far cadere le ultime foglie. Intanto il mandarino in persona girava furibondo per il giardino, giurando che si sarebbe vendicato di Chang. Calò la sera. Accoccolati nella capanna del giardiniere, Lici e Chang si baciarono e si prepararono alla fuga. Ma erano appena usciti quando si accorsero che il mandarino stava in mezzo al ponte, sbarrando loro il passaggio con una grossa frusta in mano. «Non avete scampo!» gridò. «Ti ho preso, traditore di un Chang! Preparati a morire!» Lici gridò terrorizzata. «Ah, Chang! Chang, cosa ti ho fatto? Non possiamo uscire da quest'isola se non attraverso il ponte!» Il mandarino avanzava facendo schioccare la crosta. Sembrava certo che Chang sarebbe stato battuto a morte. «Salta, Chang!» gridò Lici. «Salta con me in acqua! Non potremo stare insieme nella vita, ma almeno saremo uniti nella morte!» E mano nella mano andarono incontro alla morte. Il potere dei mandarini in Cina era grande, ma il potere degli dèi ancor più grande. Gli dèi guardarono giù dalla cima delle montagne i due innamorati e li ammirarono per la loro fedeltà e il loro coraggio. Mentre la frusta del mandarino fendeva l'aria, le bianche braccia di Lici si coprirono di tenere piume e anche il corpo di Chang si coprì di lanugine. Gli dei avevano trasformato i due innamorati in una coppia di tortore. Volarono lontano, lontano, fuori dalla portata del crudele mandarino. Dicono che costruirono un nido fra le colline di lì. E tutti conoscono ora la loro storia, perché i fabbricanti di vasellame l'hanno dipinta in un delicato blu sulle porcellane e le hanno vendute in tutto il mondo. Lontano, lontano, più lontano di Pechino, più lontano di Anyang o delle distanti terre del Tibet.